Bacchisio, attenzione signor Bacchisio, attenzione signor Bacchisio, signor Bacchisio. Signor Bacchi, come senti? Basso ti sento. Aspetta a vedere se che sia il volume. Prova. Quando fa. E adesso già ti sento. Aspetta un po'. Vedo un po' adesso. Sì, anche poco fa ti ascoltavo. Ho sollevato il volume. Non mi senti perché? Sì che ti sento e se non ti sento io che ti senti. Sì, sì, no, già ti sento bene. Stiamo pensando di arrivarci sulla finestra. Esagerato. No, già funziona bene, benissimo. Dove sei? Su? Su, il laboratorio. Andiamo, andiamo. Certo. A me stasera non mi funzionava il telefono in tutta la linea, ero che vicino. Deve essere che era il ripetitore che non funzionava. Già mi manca la DSL, mi manca. È interrotta. No, la team. Quella team. Infatti domani a mangiare non mente telefoneggio alla cosa, alla team. Che siamo senza DSL, no? Non si occupa che ne bannunda. Ah? Non ho capito. Sono che loro contano sempre. Tu la usi, non la usi, loro contano. Infatti, aspetta, loro contano, ma io non conto, me ne deve fare due di già. Basta darci in persona, vai a colazione al mercato, se la piglia di marino e le carte 4. Ah, non ti possono fare nulla loro, non ti possono fare. Devi chiamare 187 per queste cose. Sì, lo chiamano loro, ha preso loro. Io so chi paga io. È gratis la telefonata, il numero verde. È gratis, allora si può fare. Ma tanto mi devono chiamare loro per... ho fatto delle fatture, mi sono mandato delle fatture che non... con la linea che non c'ho, un pregio, che non ce l'ho più quella linea che c'avevo prima, c'è un'altra, con un altro numero, e quindi io avevo finito con quella cosa lì. Adesso mi devono chiamare loro, ma niente, mi chiamano il lunedì. Infatti se mi rompono le catturi, assai, nel vostro disetta direttamente e si è ridotto con Eddie. Calmano per un'altra società che fa un'offerta, no? Un'offerta più buona. Infatti c'è un'altra, mi metto la Wind con 19,90 €. No, questa è 19,90 € la DSL fibra. Ogni 2 mesi però. Ogni mese lo devi pagare, ogni mese 19,90 €. Ogni mese, con il modem, non chiavetta, modem. Con la linea esterna, direttamente con il modem che ho a casa e va così. Solo che oggi, da rimane a sera, e oggi è sarrata la linea. Sì, ma io la bolletta era pago, è compreso. Fa una bocca, una bella di bene si può fare. Infatti quello di neanche te ne bigliani, devo fare il operare bene, non è compreso che non devo pagare in più io. Allora, vedrai, non so, io non faccio. te di dirà è così, no? Io sgubaghendo, tu mi devi dare la linea a me. Se a voi a me in due di non mi funziona, due di me le devi fare. La mia, tu mi dai la linea di un treno, poi te la ma la manzana che c'è in buffiglia e prende il mio zio puro via a casa tua la mia di razzio ma chi so me la giubilia da rimane per andare a ritirarmi l'esito degli esami quindi ma so che drattenni non ti preoccupa che gli era dratto io a chi con la macchina a un centro non faccio a chi è troppo di coso no, da trovare il posteggio sì, un posteggio, per la piece che lo facciamo e che lo facciamo noi a pagamento puro e fatti il turba prima, o lo sanno, o lo segno e le decine non si paga infatti, forse così alla subizina a coso lì e salgo con la metro. €1.30 €1.30 però a me me ne scende vicino dove vado alle cliniche me ne scende vicino perché c'è la fermata delle cliniche e poi l'altra fermata non c'è. Cioè, con il tra devo scendere a piedi, devo scendere. Ma tra devi scendere a piedi perché io prendo la 25 e me ne scendo scendere in Italia per pagare. E invece prendi la Siria e te ne va a Vizzino, lasci la macchina lì, te ne va a Vizzino. Non so mi lascia più in macchina. No, e cazzo io ieri l'ho lasciata e l'ho trovata. La cazzo la docca in Chivi, che è sarrada. Dice vabbè dai che sei in faccio beh ogni agosto in Sardegna temporale due tornado temporale non ci vedi che tempo è all'aria e domani non ho potuto vedere una tessi vediamo siamo un po' purtroppo devi da salire l'orologio devi da salire no guarda per tempo di merda proprio Marino l'ho sentito poco fa verso le 6 l'ho sentito la gente dice che c'è una trombetta da buio la gente dice più bene poi mi ha chiamato a vedere se funzionava il telefono e per fortuna già funziona al PMR c'era Gian Maria chiamato ma che riposo ma che aspetta andiamo ma non l'hai trovata un'altra capsula per quel microfono devi appena scaldare la devi appena per sciogliere la colla infatti gli hanno messo la colla a caldo ma io a me me l'hanno data una però non so quindi inizi la giurampada ho la giudrattata ce l'avevo per microfono piccolina ma non so quindi si raggicuta e allora vuol dire che non è 500 ohm non c'è 500 ohm non c'è 500 ohm non c'è 500 ohm deve essere almeno 850, 500, anche 500 va bene. Ma devo trovare però. Io Bacchini ho trovato parecchio, però non c'è segnato nulla da quanto sono. L'unico cosa che ha già era un microfono intake, quella fitta ruglia. L'unica cosa è provare una capsula piccolina e vedere. Ma già si può aggiustare quello lì, l'MP4 stai usando. Ci vuole proprio la capsulina sua, ci vuole originale sua, se no con quella lì sta funzionando bene, però se rimane come cuffa. Prova a vedere. È sempre la stessa. Vale la basciata di Ruduttu. No, aumenta. La manetta la serve, non si intende. E allora, se cos'è una cosa, mettiamo la via qua. Sacchi, ma io bene sto uscendo di radio, buona No, per certo è buono, si è la che Marino mi ha detto che sono gubassu. Ah, non è uguale. Forse Edo che è troppo di gozo, forse deve aumentare il volume. E così deve essere. L'MP5 sto usando io. Andiamo, speriamo che domani non fosse a Eva Dorra. Ma può farlo di là, me lo mi la. I fusti ce li hai, no, da riempire? La voglia. Quindi a voglia veniva questa, tanto è acqua di cosumi per le batterie, va bene, va distillata a Bruppio. Per distillarla bene. Già lo so, sì, bisogna metterle in bottiglie di vetro. Ma meglio sia un piegame grande di vetro e poi la travaglia. Catta, so, due, tre dighi non ci ambuleva a chi si arriva. Se penso che li metto il gatto, ad a voi, all'otto me lo voto. Me ne sono dimenticato, qualcosa che era avvenne e tutto me ne sono dimenticato. Te l'ho detto che non era già. No, offendeva, no? Ma c'è il motivo del marino, Ma ha detto che era vendicosa a me. Ma lascia da che era vendicosa. Ciao, facciamo l'amore, buonasera. Ciao, Tore, ciao, anche Bacchigio. Bacchigio, avanti, buonasera. Buonasera, Marino, guarda chi si sente, questa zona siamo da QRM, da chi? Molto QRM so, ti ascolto, sì, ma sono molto QRM, non lo so. Non lo so, ci avanti Tore. Chiudi lo squelci, chiudi. E girato lo squelci. Così QRM non ne senti. Senti, come te vemmo lui. Girato, girato, sono molto QRM, fra noi. Anche abbastanza sostanza, aspetta, Ho abbassato, vai avanti, vedi, fai così, così almeno mi senti, nel QRM non lo senti. E vabbè, ho abbassato l'altro pulsante, appunto, ti abbassa di segnale, però l'ascolto, va. E allora, Bacchiso, che mi dici? Io ti dico, ho fatto quattro chiacchiere, vedi un po' adesso, più bene mi ascolti. Adesso sei un amore, sei un amore. Questo è il vecchio, questo sono un vecchio, sto andando. Adesso arrivi forte, forte, anzi attore stai. Lo stai accappottando attore adesso, come modulazione. Io ero tutta la sera sul faccetto, va. Tore, hai capito, mi hai. Tore, avanti, anche a te è migliorato. È migliorato un po' Garetti, ma tocca ad abbassare il volume. Addirittura, il vecchio funziona più del nuovo. Vetturai, allora ti conviene lasciarli su. Ha fatto male, se voglio la mano, non decalde di scusa. Male uno e peggio l'altro. Forse c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. Stai fischiando, Mari. Non so, sentito qualcuno che ha bussato, avanti che vuole entrare. Ah, forse è anche ad un altro che ti pone abbortante e noi. Non lo so. Allora, Bacchigio, sei forte e peggio di Tore adesso, No, era una portante che ti mettevano, era una portante, Marino. Ce la mettevano sopra, andava a superarli. Oddio. E via. Allora, tutto bene, finita di lavorare. Ho finito, ci ho pegato una caggiuta, gli rasavo, come un salame, guarda, come un salame. C'ho il braccio che, ma i muscoli fa male, come si è pomato ieri notte, già mi sta passando, ma mi va di male, mi va, ma già passa, va. Colpa delle strisce del coso delle biciclette, capito? In via Manuia, se c'è il coso delle biciclette, la striscia in cemento. Come mi sono girato, c'era il camion, sono caduto come un salame, sono caduto. Avanti, to. Comunque ti stanno mettendo la portante, comunque la passi. No, non ti fa nulla. Se te ne rubruci, giuro, buh. Lascialo mettere, peggio per lui. Non c'è tempo da perdere, tutto qui. E allora, ma chi? L'anima è tolta, dai. Cosa? L'anima tutta non è fatta. Il vento l'ha fatto più di me, io ne ho fatto 4 quintali e non l'ha fatto 8. Quest'anno è meno la metà, giusto? No, quest'anno non c'era produzione, nulla. C'era l'anno scorso, quest'anno è riposo. Quest'anno è riposo. Il prossimo anno adesso, vediamo un po'. Perché fanno un anno sì, ma no. Avanti, to. Eia, sono qua. E andiamo, via, andiamo. Ah, sai che ho trovato Mari stamattina? A Bruno Serra, quello che è in pensione, quello che fa al centro studio, o mi sbaglio? Quello che era la Slia, che era al comando della cosa di scarico. Non lo so se l'hai conosciuto tu. Stavo bello già, era zia, poi entrava a Gesù, poi la depressione. Abita al centro storico, abita. Quello lì sta dicendo, che sempre uno da uno è peggio dell'altro, no? Ella. E dove l'ho beccato? In giro era. Da coso, da Maurizio l'ho trovato. Ha dimagrito parecchio, È un altro signorino, con quale sto? Un signorino, ogni tanto lo vedo, c'è lo scooter, prende il garage, poi c'è la macchina, sempre la lucida. Sempre lucidando la macchina, vabbè, il tempo già non le manca adesso. Ehi, anda, vai, anda. Guardate, un 10 minuti fa vedendo, dove andate a cercare a famiglia e non riesci a ciapparla. Anda, veda. Vabbè, no, già becco, ogni tanto già lo vedo. Ogni tanto, quando passo con la moto in zona, da... Non mi sono quello sono io, avanti da chi? Ci mettono il BB anche, il BB della macchina che hanno messo. Sta fischiando adesso, non so chi era. Avanti non fischio, non ne ho voglia. Non ne ho voglia, avanti da chi? Cosa vuoi fare? Vuol dire ci vuole giocare. Ma c'era anche qualche goccia d'acqua, se non giocare con l'acqua fa più bella figura. E se io cattivo abbondante. Cosa le porte, però tu la superi. Quasi come una fase di ti ha coperto. Guarda il finale, sei uscito Battista, vicino basso basso, dopo sei salito, E adesso uscendo sono, no? Adesso prima sei di basso e sei aumentato. Questo qua è vecchio, anziano, Non mi sembra essere di questi figli che si muovono qua. Ci mancano vite, forse quello lì. Se non è che qualcosa tocca non tocca e si abbassa l'emozione. Avanti Tore, vicino. Tore, senza motore. Ehi, abbacchi, lasciamo qua, non ti preoccupare. Sei qua, Paolo, non ti chiamano, non rispondi. Ma cosa stai facendo? Sicuramente stai guardando una televisione, così è. Oh, so che bene ho un televisore. Mi hai immaginato. Ma queste cose come va? Oh, fa vedi a fare la televisione, boh. Sono una zona già vendi, sto vicino, insomma. Abbiamo un caso la zona tu. Ah? Ah, ci compri giù. Se sta piovendo in quella zona? Penso di no. Ah va. Io la smesso, qua ogni tanto togli un paio di gocce e poi smette, ma fatto basta quest'acqua, basta, non è stato abbastanza, avanti da chi? Lasciamo fare Maria, che lava le strade. Lava le strade. Ma volevo chiederti, le banane come stanno andando? Hanno fatto la foglia? Le banane, secondo me, guarda, se stavo vicino non ci ho fatto caso, da lontano, già sono le dritte ancora. Sì, quella la tua ha tolto la foglia, la bacchetta. La tua ha tolto la foglia, che l'ho vista, la foglia nuova. Gli altri ho visto che stanno già pecchitto, me l'hanno già pecchitto, già tra poco ci vede qualcosa, dai. A me se devono togliere le foglie, devono produrre. Io ne avevo piantato una piccolina in un vasetto, oggi l'ho guardata, e ha cambiato due foglie. Almeno sì, io qui quasi sotto la strada, diciamo, là, almeno rimango riparato dal vento tutto quanto. E stasera ho spostato qualcosa, ho spostato la mia moglie, sto sistemando. Adesso se non piove iniziamo a fare cose, devo fare l'impianto elettrico del viale, ho già preso i pozzetti e il tubo. Domani prendo il cavo, prendo, così mi organizzo e ciccia. E se no. No, perché lo voglio fare prima di fare il muletto, ho capito, così almeno se lo mette qualche ciclo di cemento per bloccare ce lo metto tutto qui avanti. Dunque ne hai ancora, va? Ancora ne hai da fare. Guarda, mi ha fregato il tempo, ha fregato. Però sta piovendo, adesso dove ordinare la sabbia, non la faccio, se aveva pronto per ordinarla, sono bloccate perché sta piovendo, non può la sabbia. Ma ho fatto tutto quanto. Adesso vediamo. Adesso già insieme ad una sabbia, almeno c'è già c'ho blocchiti, c'ho la sabbia, non ho preso il cemento e basta. Quindi non sono pronto, iniziamo e ciccia. Sono uscito. Oh, mamma zotte. Quando come ti metti? Sono uscito, ma sei a tratti? Ma chi? Non c'è un bel apparato. Sicuramente sta cambiando la parecchia. io via. E che siamo, tu non hai sentito? Sono dall'altro giorno che non lo sento. Ah, ok, siamo quasi un mezzo sottomodulato. E Giovanni, da chi è entrato? Ciao Maria, l'ho sentito stasera, nel PMR, si canava a Ciamallo. Non dire la moda, poi c'era la gente. Purtroppo quando arriva la gente deve lasciare tutto e così via. Non educazione. Ma chi si avanti? Sono qua, buonasera. Basso di modulazione. Cambia parecchio. Aspetta Mari, che ci deve essere Gian Maria. Aspetta Gian Maria, tu sei. Eia, invece ci siamo soprammodulati col Bacchigio. Buonasera Tore, buonasera Bacchigio e buonasera anche Marino. Vi stavo ascoltando e non mi sento bene, non sto entrando per quello, vai. Mi sto guardando la TV e vi sto ascoltando, vai, sto in procedimento. Vi saluto, vai, e eventualmente ci sentiamo domani. Non mi sento bene, sto lì, sto. Riprenderci, dai, buon procedimento. Sì, ok, ciao Gian Maria. A domani, se tutto va bene, ok. Ti prego, Maria. Benissimo, ciao Gian Maria, ben sentito, a domani, dai. Ok, a domani, se concile. E non è calduccio, adesso è il tempo brutto e ci pesca subito. Bene, avanti, da chi? Via, ciao Gian Maria, buonasera, saluto le famiglie. Non ti ascolto. Cerco io, c'è molto QRM oggi in questa zona, molto QRM, dunque si copre il QRM. Poc'anzi è bello forte, squillante, adesso sei nuovamente basso. Avanti tu, cosa hai detto? Nuovamente non ci compreso manco io. Ripeti Bacchi cosa hai detto? Invece ho cambiato apparato. Adesso già ti capito, ho levato il volume. Ok, riprendo io, so che mi sta chiamando di risposta, va. A domani, ciao, sto ben sentito, sto tu in casa, la signora. Ciao, va chi ben sentito, sei in casa, lo lascio prima, ti faccio uno squillo domani mattina. Sto tu in casa, a domani se coincide. Bene, tu lo riprendi e faccio quelle reti, dai, sto tu anche tutti gli ascoltoni, quelle reti per me, dai, avanti tu. Ok. Ci sentiamo Maria domani, ok, ciao. Ti prego Bacchi. Ciao Marino, buona serata, sono in casa, a domani, sei stato precise. Benissimo, direi così, no, allora sto facendo passo. E vabbè questo, di nuovo la 4 passa, la 4 della 5. Lo so, è per quello, ma dovresti uscire lo stesso, bene, esci. Non è nulla di grave. Sì, 4 watt sono precisi, me lo segna pure a me, me lo segna, 4 watt precisi. Ieri sera verso le 7 si sentivano delle scariche, ma poche. Infatti, ho telefonato ieri sera mio cugino. Non va a sapere chi era quello che ha bruciato l'apparecchiatura dell'antenne, del radiatore. Dice che abita in una palazzina. E non sono riuscito a capire chi fosse. Non ho capito Bacchi, c'era un radioamatore che sta prendendo le antenne, così è. Un radioamatore, un fulmine, l'altra notte, gli ha bruciato tutte le apparecchiature e le antenne. Ma qua a Sassari? Sì, a Cucimetto mio cugino a Sassari, infatti gli ha detto Vittorio, però non gli ha detto il nome. Non lo so chi sia, se non lo sa Antonello mi. Antonello forse lo sapete voi. informato. Infatti, Antonello è più informato, sì. Ma ti ho fatto perché lo sai che, boh, hai detto la Petretta, no, Petretta c'è lo lei. Hai detto là, è quello lì, del mercato, quello che, siccome dice, io ho due direttive e una verticale. Quello del mercato c'ha due direttive e una verticale sul terrazzo. Ma in che zona non te l'ha detto dove è successo? Ma l'ha detto perché non gli ha detto, ma va. Non lo so, perché qua a Sant'Orso va a venire uno, radioamatore. Infatti, boh, non lo so allora. Ehi, a sera va a fare, ti indica, Ma più tardi il telefono mio cucito, perché è stato tutto qualcosa, perché doveva parlare ieri notte con i giovani in radio. Avevo un appuntamento per ieri notte. Io la mandrolina devo salire qua per ascoltare lo strumento. Ma in cosa lo doveva chiamare? VHF? Ma chi? Vuol dire che si sentono mai in PMR o in VHF normale? Quando entra un fulmine alla sorte, perché bisogna staccare il capo centrale, bisogna staccarlo, hanno bisogno che ci fulmini i voci, i nonchi, bisogna staccare il capo centrale, lasciarlo qua a una parte. Infatti bisogna fare così, bisogna fare. Sono le due ore che andate, capito? Non tutto quanto bisogna saccarne, anche se no dice arrivederci, di dici. Quale? Quello vicino a Coso, alla chiesa di San Francesco. Quello vicino alla chiesa di San Francesco. No, quello è Coso. Aspetta un attimo, Bacchi. Vabbè, Bacchi, sarà... Adesso sarà, boh. Bastava attaccare l'urugavo e lasciare il gozzo. Inserite e attacca l'urugavo centrale. A me pare che ne ha già tre cavi o quattro. Sì, ma... infatti, basta staccare il radio, staccare dai commutatori direttamente, fasi a prima. Sì, ma il fatto che io ho detto, antenna è anche corretto, dove trovate il tutto. Il commutatore mi gli avrebbe bruciato, ci aveva staccato dal commutatore, gli avrebbe bruciato il commutatore che c'era prima di inchini. Io li ho staccati i cavi da commutatore, li ho staccati, quindi se entrava a trovare si firmava nel commutatore, ma con la canna da pesca non entra. Ma questa che ho io, l'antenna del canale da pesca, non entra. Nell'altra sì che entrano, ma in questa no. In quella d'alluminio entrano. È più isolata quella che ho io. Anda verità. Ci sentiamo Bacchi, dita Mecciamelli. Ok, a domani, ci sentiamo domani, se tutto va bene, ok. Ciao Bacchio, buonanotte e buona cena. Sì, dove? L'hai cambiato tutto al 100%, io buonanotte, a domani dove? Ciao ciao. Sì, ok, ciao Bacchi.